24 mattino. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, bentrovati a 24 mattino. In questa prima parte, come sempre, abbiamo due ospiti che oggi sono Carla Rocchi, presidente dell'ENPA, e l'onorevole Maurizio Bianconi, parlamentare per il gruppo dei conservatori e riformisti, quindi all'opposizione. Buongiorno a entrambi, buongiorno Carla, buongiorno onorevole buongiorno. Bianconi. Buongiorno. La prima cosa che vorrei chiedervi, visto che ieri c'è stato l'esordio sulla scena internazionale del nuovo premier Paolo Gentiloni, che adesso sentiamo, perché ha fatto vedere un po' un nuovo lato di sé, un pochino più spiritoso del solito. Lo si accusa di essere, soprattutto i comici lo fanno, abbiamo visto Crozza, di essere fin troppo calmo e compassato, e quindi sentiamolo ieri che ha fatto appunto un tentativo di battuta, o una battuta vera e propria, secondo dei gusti. Sentiamo. Scusate l'orario, la riunione è durata appena 12 ore, quindi non... Ecco, e ha riso da solo la sua battuta, e già questo forse non è un buon segno. Scherzo, naturalmente, io apprezzo moltissimo la sobrietà dello stile di Paolo Gentiloni, però è un fatto che appunto naturalmente sembra l'opposto invece dello stile molto, molto più energetico e forzatamente forse energetico di Matteo Renzi. Volevo chiedere a entrambi, cominciamo da Carla Rocchi, un suo parere su Gentiloni, anche perché comunque ricordiamolo, Paolo Gentiloni è stato per 8 anni il direttore di una rivista che si chiama Nuova Ecologia, e sicuramente tra le tante qualità che ha c'è quella di essere un esperto di questioni ambientali, e sono questioni sempre più importanti sul tavolo dei governi, anche se a volte non vengono forse trattate con la giusta serietà, impegno, coerenza. Carla, cosa pensi di questo nuovo governo? Ma io penso del governo, il governo è un altro discorso, della persona che conosco da tanto tempo. Penso una cosa, intanto che abbiamo proprio, ci fa bene ai nervi avere una persona meno spiritata con cui trattare, perché questo ottimismo forzato, questa cosa assertiva che aveva Renzi, che poi non gli ha portato un gran bene, era molto faticosa anche da ascoltare. Cioè Gentiloni è un'altra cosa, Gentiloni è un po' è tutto un altro film, però almeno ci... Insomma, è più ascoltabile. Su quello che poi farà questo governo lo sa Dio, perché intanto questo governo è molto simile all'altro, quindi le grandi differenze non si vedono. I tentativi di differenze messi in piedi stanno creando crisi piuttosto che risorse. Insomma, io non lo so in che mani siamo, ma non tanto per Gentiloni quanto proprio per l'intero dato della politica. Però almeno non mi stanca, ecco, io mi stancavo molto da questa cosa sempre: siamo bravi, siamo belli, abbiamo tutto, abbiamo i posti di lavoro, abbiamo ogni cosa. Hai ragione, hai usato l'aggettivo spiritato e mi sembra molto adatto, e forse su questo ottimismo forzato si sta facendo anche parecchia autocritica, perché proprio c'era questo scollamento tra i dati sempre sbandierati come positivi anche quando non lo erano, e poi il sentimento che evidentemente soprattutto tra i giovani. Rende autocritica sono due cose che difficile. Insieme non stanno. Onorevole Bianconi, voi siete all'opposizione, però non siete usciti dall'aula come hanno fatto altre forze politiche al momento della fiducia, quindi comunque il suo giudizio su questo governo e, se vogliamo, sul primo ministro, qual è? Gentiloni è una persona che non, almeno non è ansiogena, ha ragione. È uno che, anzi, io siccome non gliele ho risparmiate al governo, so, non è che poi mi ha tenuto il muso alto, so, è una persona normale, è una persona normale, sembra molto calmo, no, è semplicemente normale, era quell'altro che va. No, poi, quindi lei è ottimista magari su un maggiore dialogo con... Perché io no, credo... col dialogo no, perché... No. E poi c'è la contro, diciamo che c'è l'altra parte. Però purtroppo una cosa sono i rapporti personali o le caratteristiche personali dell'uomo, una cosa è il contesto politico. Il governo è un governo fotocopia, non solo un governo fotocopia, è un governo che io l'ho definito una provocazione, perché quando un certo malcontento emerge in maniera così prepotente, un minimo di senso di cambiamento agli italiani bisogna portarglielo, perché sennò si rischia proprio veramente di provocare, e ci sono personaggi che non dovevano comparire in quel governo, ci sono personaggi che non hanno fatto notoriamente bene, che sono stati promossi, e poi sono tutti quei personaggi lì. Ecco, poi sentiamo, un governo che viene da consultazioni parallele, la cosa che ha dato più noia, che magari i giornalisti l'hanno poco, come posso dire, avvertita, è stata la questione delle consultazioni parallele, le famose consultazioni telefoniche che si dice Renzi abbia fatto mentre Mattarella... Non è ammissibile. Insomma. Sentiamo proprio su, immagino che tra le persone che lei reputa inadeguatamente promosse ci siano la ministra Madia e anzi il ministro Madia, io sono con Napolitano su questo, non mi piace sindaca e ministra, quindi il ministro Madia e Anna Finocchiaro. Sentiamo cosa ha detto ieri Di Battista, esponente del Movimento 5 Stelle, proprio su questo. Lei è stata scelta come ministro nonostante si sia spesa per il sì, cioè è stata premiata per un suo fallimento. L'ordine del giorno però, deputato, l'ordine... Colleghi, per favore, evidentemente vada al punto. Per un proprio fallimento il ministro Madia, dopo che la consulta gli ha bocciato il decreto. Però, però deputato Di Battista, vada al punto dell'ordine del giorno, abbia pazienza. Il decreto che riguarda quest'ordine del giorno, posso fare un discorso complessivo o mi deve interrompere? Il discorso deve essere sull'ordine. No, colleghi, il discorso deve essere sull'ordine del giorno, mi consentirà. Io devo dire che sogno un Parlamento dove non sembra appunto l'aula scolastica con una maestra che non riesce a tenere la classe, ma e sogno anche dei parlamentari che parlino un italiano corretto, perché purtroppo Di Battista anche ieri sera un condizionale al posto di un congiuntivo, adesso qui gli per la ministra che... Comunque, a parte questo, Carla, tu cosa pensi di queste, che in particolare sono anche donne, ma credo che la questione non sia assolutamente quella, però in effetti il ministro Madia è l'autrice della riforma che è stata sonoramente bocciata dal referendum e Anna Finocchiaro era presidente della commissione delle riforme, quindi anche Anna Finocchiaro ha avuto un ruolo importante nel dar forma a questa riforma e farla passare in Parlamento, quindi questa riconferma in effetti, secondo te, ha ragione l'onorevole Bianconi, suona quasi come una provocazione? Secondo me al di là del giudizio sulle persone, che sono, per esempio, Anna Finocchiaro è indubbiamente una persona per bene, competente, esperta, ma il punto è questo il minimo rimpasto di questo governo non è in funzione dei meriti o del consenso popolare, ma è in funzione dell'equilibrio interno delle forze del PD. Con il Paese non ha niente a che vedere, con la realtà dei fatti non ha niente a che vedere, ma non poteva essere diversamente, perché questo non è un governo... E non è un governo di svolta, questo dovrebbe essere il vero problema, è che questo dovrebbe essere un governo di traghettamento verso la riforma elettorale e le elezioni. Questo è un governo che come minimo ci porta all'autunno. Io ci scommetto qualunque cosa, per la famosa questione dei vitalizi ci porta sicuramente all'autunno. E quindi non avendo la pretesa e il compito di cambiare le carte in tavola, ma di essere soltanto una funzionale a questo, non poteva contenere altro che elementi di riequilibrio interni al PD, cioè per sedare un attimo questa rissa incontenibile che c'è dentro il partito. Onorevole Bianconi, è d'accordo, sarebbe triste. No, stavolta ha detto una cosa giusta, che risponde agli equilibri interni, però il contesto non mi vede consenziente. Intanto un fatto, la senatrice Finocchiaro è una fior di senatrice, quindi io con lei proprio non ce l'ho, perché dopo tanta, come posso dire, è tanto dilettantismo nei rapporti col Parlamento, lei ieri ha dato modo di far vedere come ci sia anche professionalità nella politica, anche in questo scontro con Di Battista, il quale divideva i ministri, quelli del sì e del no. No, io parlo di altro. Hanno fatto un governo tenendo conto degli equilibri interni su dettatura di Renzi, perché questo è quello che irrita un po' di più. Quello che diceva delle consultazioni parallele. È logico, perché con tutto il rispetto, e io non ne ho molto per la verità, per il sottosegretario Boschi, gli si è stato dato un ruolo di una delicatezza unica ed è stata promossa quando è non solo l'autrice sedicente, quantomeno autrice di questo disastro, ma è anche l'autrice come posso dire, del modo di porre questo disastro. Ecco, sentiamo su, perché mentre, scusi, la Madia è tanto fa la Madia che un altro, non è che quando vedo la Madia mi viene in mente Forte Braccio che parlando di Tanassi e disse è arrivata la macchina del ministro della difesa ed è sceso nessuno. È uguale, insomma. Sì, io intanto volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che ci stanno mandando i messaggi e mi fanno un po' le pulci perché ho fatto degli appunti alla forma di Di Battista dicendo che dovrei guardare solo la sostanza. Sicuro le cose che diceva le valutiamo nella sostanza, però me lo si perdoni, io vorrei anche una forma che darebbe più sostanza alla sua sostanza, questo penso. Ma sentiamo solo un attimo, perché sul ruolo di Renzi e queste consultazioni parallele di cui si è parlato, purtroppo ci hanno fatto un po' tornare in mente a molti di noi il vecchio modo di fare politica che Renzi aveva detto non sarebbe stata la sua cifra. Sentiamo invece per esempio Cacciari cosa ha detto ieri del Renzi autodefinitosi rottamatore. Quella del rottamatore, che sembrava tanto innovativa, a guardar bene è una comunicazione di mio nonno, il mostrarsi con Apple, ma fa ridere i giovani. I miei studenti ridevano alle apparizioni di Renzi con Apple, ma cosa credi di essere innovativo perché usa il computer? Ecco, Carla, secondo te Renzi, che abbiamo visto nei dati di analisi dei voti al referendum, ha ricevuto oltre il 75% di no tra le persone nella fascia degli elettori più giovani. Quindi se il suo obiettivo era anche di far presa sui giovani e se questo voto al referendum era anche un voto su di lui, non sembra aver avuto molto successo. Ma Renzi sicuramente quando riparlerà in pubblico con tutto lo spazio che ha strabordante che ha avuto, ci dirà invece che lui ha avuto un grande successo e che tutti i dati sono a suo favore, che questo passa, che spesso il futuro passa per un momentaneo declino. Cioè, Renzi è da questo punto di vista incontenibile, è proprio incontenibile, ci sarà un modo di avere autocritica. Ma guardate, io tornando al fatto a come sia così presente ancora in questo governo, faccio notare un passaggio estetico. È la prima volta che nella presentazione di una lista di ministri si vede un sottosegretario. Il fatto che si sia visto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la Boschi, guardate che è un segnale mica da niente. Quando ci sono i ministri si vedono i ministri, quando giurano i ministri. Questa volta il sottosegretario, pur essendo di nomina in quel momento, è la prima volta che lo si vede in pubblico nella lista dei ministri. Cioè Renzi ha continuato a fare esattamente quello che aveva in mente di fare, quello che gli è consentito fare, perché tuttavia gli è ancora consentito fare, e d'altronde guardate, la persona forte in quel partito è lui. Noi ci meravigliamo resta tanto. Lui, certo. Ricordiamo per esempio quel sondaggio che è stato pubblicato l'altro ieri, che darebbe in un ipotetico partito fondato da Renzi, gli darebbe circa il 20% dei consensi contro il 12% che raccoglierebbe il PD da solo, il PD senza Renzi. Ci fermiamo solo un attimo, però poi naturalmente do la parola all'onorevole Bianconi su questa svolta che non c'è stata, possiamo dire, nei modi della politica e oddio, c'è stata questa svolta che diceva Carla del sottosegretario presente al giuramento, non ce ne sono state e possiamo considerarla una svolta negativa, e non ci sono state quelle positive che forse molti auspicavano. Ci fermiamo solo un attimo per il traffico e poi appunto chiedo all'onorevole Bianconi cosa ne pensa. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Mattino. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, ed è molto divertente vedere come alcuni reputano il mio appello a una maggior forma assolutamente inutile e proprio che non è la cosa che importa di più agli italiani, e tanti altri invece pensano che forse appunto ripensare un pochino anche la forma, naturalmente insieme alla sostanza, non sarebbe una cattiva idea. Ma a proposito di ripensamenti, eravamo rimasti appunto alle presunte novità che avrebbe dovuto introdurre Renzi nei modi della politica. Si era presentato come un rottamatore e molti invece ora lo accusano sulla questione per esempio delle consultazioni parallele, di essere esattamente come nella prima e nella seconda Repubblica. Onorevole Bianconi, lei cosa ne pensa al di là della... Sono molto, molto contento stamani, che mi levo presto da me, ma mi fossi levato presto per sentire voi due, io sono molto contento, perché finalmente ho sentito quello per cui per me è fondamento. La prima cosa, la forma in democrazia, specialmente in democrazia parlamentare, è assoluta sostanza. E quindi il fatto che la sottosegretaria sia andata lì, io ci ho fatto un'interrogazione che depositerò, perché è una cosa che non si è vista mai. Ma questo vi dà l'idea in che mani siamo. Quando io, perché vuol dire che hanno proprio fatto strame un po', non delle ritualità, ma delle forme. Quando io ho parlato alla Camera sulla riforma costituzionale, il merito non l'ho trattato, io ho parlato del metodo. Ed essendo la riforma costituzionale materia assembleare, io ero scandalizzato dal fatto che il governo ne avesse fatto programma di governo con un suo disegno di legge. Ho visto che questa cosa è stata capita poco, cioè c'è un generale imbarbarimento del rispetto delle forme che in democrazia, ripeto, sono assolutamente sostanza. Ecco perché noi siamo rimasti in aula per rispondere a quello che le dicevo prima, perché la opposizione si fa in aula, certo. A parte le svolte a Ventignane che ebbero il successo che ebbero, non è che si va in piazza quando si presenta un governo in aula, si sta in aula, quando è il momento di andare in piazza si va in piazza. Sono mancanze di rispetto gravi, non poco gravi, molto gravi. Tra l'altro questo mi riporta anche a un altro problema, perché è stato segnalato anche per la riforma costituzionale, è quello di come sono scritte le nostre leggi, cioè c'è stata anche la polemica sul codice degli appalti. Dove... Guardi, se lei, io ho fatto il consigliere regionale in Toscana per 13 anni e Renzi se li è portati dietro. Noi abbiamo degli grandi scrittori in Toscana che fanno tutte circolari che sono incredibili. Quelle leggi sono la ripetizione di quelle circolari. Ma noi abbiamo assistito, dottoressa, a una Costituzione che porta delle leggi dentro il suo, dei numeri di legge dentro il suo contenuto. Sicché se cambia quella legge va cambiata la Costituzione, che è una bestemmia giuridica, è una bestemmia sostanziale. Nessuno ci ha fatto caso. Sì, purtroppo... La Costituzione del 47 fu portata da Concetto Marchesi alla Crusca e fu resa in buon italiano, ha capito? Certo. E questi invece hanno fatto tutto da sé. Questa è la cosa che mi dà più noia. Quindi non c'è rottamazione, c'è soltanto l'abbandono di qualche buona regola in nome della celerità e della celebrità, che non ha portato però sostanza al discorso, perché il tutto si è trasformato in una comunicazione isterica che poi ha finito per danneggiarlo. Sentiamo un'altra questione prima. Scusi di la lunghezza. No, di niente. Sono temi sicuramente appassionanti e se, devo dire, forse tutta questa campagna elettorale per il referendum iniziata così presto, se vogliamo vedere qualcosa di positivo, almeno si parla un pochino di più di politica, forse attaccandosi un po' troppo senza a volte entrare nel merito, però almeno la gente sembra più appassionata, cioè l'antipolitica la vedo un po' in discesa, ecco, e secondo me è una cosa positiva. Ma su una questione che probabilmente farà molto discutere, ed è quella dell'altro referendum per il quale la CGIL ha raccolto oltre 3 milioni di firme e che quindi ora la Corte Costituzionale deve decidere se ammettere o no, e nel qual caso si dovrebbe votare di nuovo un referendum per abolire il Jobs Act, tre parti del Jobs Act. Sentiamo Gentiloni, al quale è stato chiesto un parere su questa decisione imminente. Non abbiamo nessunissima intenzione di cancella, di cambiare linea sull'articolo 18, il Jobs Act, tutto è perfettibile, ma io considero, anche alla luce dei risultati, la riforma del lavoro che abbiamo fatto come uno dei risultati importanti da difendere del nostro governo. Ecco, Carla, si è detto appunto, ed è probabilmente è vero, che il Jobs Act è la riforma tra tutte quelle fatte da questo governo nei suoi 1000 circa giorni, è quella più corposa, che forse ha inciso sulla vita di questo paese. Il tuo parere su questa legge, che naturalmente i suoi fautori dicono ci ha portato più in linea con l'Europa e altri paesi? Io penso questo, che ognuno si legge il libro come lo vuole leggere. Quando si dice sono cresciuti i posti di lavoro, noi abbiamo sentito dire da troppe parti, giustamente, che sono cresciuti i dati, cioè non si può considerare posto di lavoro un voucher a settimana. Quindi qui c'è un dato proprio, un dato oggettivo da rileggere. Detto questo, secondo me un secondo referendum, se si andrà a un secondo referendum, anche il secondo referendum sarà non tanto nel merito quanto di giudizio sull'operato del governo precedente o della continuità di questo. Noi siamo in un momento in cui, ha troppa ragione l'onorevole Bianconi, la forma ormai è saltata e la gente anche sui quesiti, addirittura è saltata anche la sostanza dei quesiti. Ma voi immaginate che in un referendum nuovo su qualunque cosa la gente non si porti dietro il clima del referendum appena lasciato alle spalle. Noi siamo in un momento così, in un momento di lotta di galli. Che dobbiamo fare? Galli intendo i galli, i galli del pollaio. I galli del pollaio. Onorevole Bianconi, lei su questa questione sia del Jobs Act in sé che sul fatto di sottoporla, una materia così delicata, almeno tre parti appunto di questa riforma, a un altro referendum, cosa pensa? Io da dire tre cose. La prima cosa è che il ministro Poletti ha dato l'esempio dello strame della forma, perché ha detto ma noi che se ne frega, si fa le elezioni anticipate, non si risponde mica così come ministro del lavoro a un problema di questo fatta, e indica anche questo, quello che dicevo prima. La seconda cosa, il Jobs Act è sostanzialmente inutile, nel senso che ha tolto un articolo 18 che non serviva a nessuno, ha fatto i precari falsamente e ha posto fisso perché sono sempre licenziabili, ha inventato questa strana abuso del voucher, quindi non è una buona riforma, non ha portato lavoro. Se viene un referendum, l'onda di rabbia che c'è, perché questa che c'è, dice non hai capito che dovevi andare a casa, hai fatto il governo uguale, e io te vi voto contro. La terza non guardano cosa? Guardano neanche il contenuto. Abbiamo ancora Conte 30 farebbe secondi. Un'opera di bene perché tolgono una legge che non mi piace, insomma. Terza cosa era questa? Era questa. Okay. La terza è che il Giobatto è una cattiva legge, ma anche mai tolta dalla rabbia, perché hanno fatto il governo uguale, cioè certo. Non hai capito dove andare a casa. L'avevi anche detto, non ci vai. E allora ti ci mando. Vabbè, chiudiamo con un appello veramente come che si abbandonino questi toni da, come dice Carla Ruocco, scontro tra galli, lotta tra galli o galline. E ringrazio Carla Ruocco, presidente dell'ENPA, e l'onorevole Maurizio Bianconi per essere stati con noi in questa prima parte. Do ora la linea al GR, noi ci risentiamo subito dopo per la lettura dei giornali. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mattino. Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, del quale poi ci parlerà più approfonditamente Mauro Meazza verso le 7:40, però vi segnalo i titoli principali. Oggi è MPS, la notizia che trova più spazio sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo è aumento da 5 miliardi. Il famoso aumento di capitale del quale MPS, la banca Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica al mondo in profondissima crisi, ha bisogno per continuare a operare, a vivere. Via libera Consob sui bond, si aspettava anche questo ieri, cioè via libera della nostra autorità del controllo dei mercati finanziari alla conversione da bond in azioni. Sulla prima pagina, subito sotto la notizia di Monte dei Paschi di Siena, quindi un po' il contrario di ieri, c'è l'aggiornamento sulla questione Mediaset Vivendi. Sapete che Vivendi ha lanciato un'OPA ostile